fossi io, viene lento di vagare, una musica brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Va da sé che questa mattina non avremmo potuto parlare d'altro che dell'episodio che sta infervorando, appassionando e dividendo gran parte degli italiani, se non la molteplicità di coloro che seguono i mezzi di comunicazione di massa, che è il gesto di cui ha fatto le spese il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che oggi viene rappresentato in maniera molto vivida e impressionante in tutti i quotidiani italiani con la foto del premier dal volto insanguinato. Ecco, noi invece partiremo rispetto a quello che altri possono aver fatto, altri continueranno a fare nel corso della giornata, e quindi è l'analisi degli aspetti politici legati a questo gesto. Noi invece ci fermeremo e ci limiteremo, o perlomeno cercheremo di approfondire quelli che sono gli aspetti emotivi. Il primo impatto avuto ieri dalla notizia data dai telegiornali, veramente seguita a tempo reale da tutti gli organi di informazione televisiva che avevano comunque spazio e disponibilità, prima di tutti Sky News 24, che aveva il tempo reale, il momento per momento. Devo dire che è stato un impatto per il telespettatore piuttosto forte, piuttosto violento. Usciamo per un attimo e liberiamoci, se possibile, da ogni pregiudizio di tipo politico, da ogni convinzione lecita che ognuno abbia nei confronti di quella o quell'altra visione della politica. Il vedere il volto grondante di sangue di una persona che ha un ruolo politico, un ruolo pubblico, conosciuta, si possa apprezzarlo, disprezzarlo, amarlo, odiarlo, è indifferente questa mattina il punto di vista di ognuno, è un grosso impatto. È un grosso impatto perché viola quelle che sono le leggi fondamentali della rappresentazione dell'uomo politico. L'uomo politico si mostra sempre nella inviolabilità del proprio corpo. Il corpo del politico sembra appartenere a una sorta di dimensione dell'umanità per cui non sprizzi sangue, non abbia delle difformità rispetto a una visione pubblica. Ma via via passando nel tempo, questa immagine è andata mutando. Si è sempre più entrati in gioco, entrati nello specifico, nell'analisi del corpo del politico. Il corpo del politico, il corpo della persona comunque nota, celebre, con un suo ruolo pubblico, comincia a mostrare il suo lato umano quando ha delle cedevolezze, a delle aperture che ne dimostrano l'umanità. E questo è un primo punto di vista, il grande impatto emotivo. Secondo punto di vista, alcune ricadute rispetto alla possibilità di esprimere un'opinione a caldo rispetto a ciò che si vede. In tempi precedenti all'epoca del web 2.0, perlomeno dalla diffusione abbastanza capillare dei mezzi di espressione attraverso la rete, da quando la rete non è più diventata un luogo dove alcune persone andavano a visitare dei siti, andavano a vedere ciò che accadeva nelle pagine che rappresentavano alcune realtà, ma è diventato uno strumento di abbastanza facile accesso e possibilità di esprimere il proprio parere, è diventato un indicatore, comunque un indicatore di un consenso, di un insenso, di un dissenso, di un flusso emotivo. Beh, cosa è accaduto ieri? Pochi istanti dopo il lancio della statuetta del Duomo di Milano sulla faccia di Silvio Berlusconi, su Facebook, che è il social network più frequentato dagli italiani, gli italiani hanno dimostrato che al di là della loro pregiudiziale incapacità di esprimersi correttamente con i mezzi informatici, in realtà ne sono dei forti utilizzatori. L'utilizzano la rete in maniera capillare, in maniera potente, avendo un primato su tutta Europa quando devono, ad esempio, giocare. Gli italiani sono dei grandi videogiocatori, giocano in rete un'infinità di giochi leciti possibili, molto più che altri europei. Ma alla stessa maniera hanno avuto una crescita esponenziale di iscritti al social network Facebook, che li mette in primo piano. Ieri è accaduto che improvvisamente sono cominciati a nascere dei gruppi sull'episodio appunto del lancio del Duomo di Milano in statuetta sulla faccia di Silvio Berlusconi, tanto che questa mattina non li ho contati con esattezza tutti, ma abbiamo qualcosa come 400 gruppi legati all'episodio. Alcuni inneggiano appunto a Massimo Tartaglia, all'autore del gesto, lo vorrebbero santo, chi lo vorrebbe sposare, chi dice che rappresenta un sogno che ha sempre voluto nella sua vita. Addirittura il gruppo più frequentato, che ieri ho visto crescere in maniera esponenziale, 1000 persone al minuto aderivano a un gruppo, questa mattina sono 40.000 persone, sono 40.000 persone. Volete per superficialità, volete per spirito goliatico, volete per quella cialtronaggine che ispira ogni partecipazione di massa alla rete, però 40.000 persone sono tante. Ma al contrario, vi segnalo un altro gruppo che è di coloro che avversano l'esplosione in rete del consenso nei confronti del feritore di Silvio Berlusconi, che sosteniamo Silvio Berlusconi contro i fan di Massimo Tartaglia, questa mattina 378.000 iscrizioni. 378.000 iscrizioni, quindi sono 378.000 persone che comunque hanno fatto un click e hanno aderito a un gruppo. Oddio, devo dire che onestamente in calcio a questo gruppo c'è anche un invito a partecipare a un'asta per aggiudicarsi un iPhone, ma questo fa parte comunque di alcune logiche che questa mattina vorremmo osservare. Quindi sia ben chiaro che oggi parliamo di flussi emotivi, la folla e la follia attraverso gli indicatori che noi abbiamo, che sono i mezzi di comunicazione di massa tradizionali, televisione e giornali, e la nuova maniera di esprimere un parere che è la rete. Inizio con una persona che spesso sentite come ospite a questa trasmissione, che è Andrea Rossetti. Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Ricordo che è docente di filosofia del diritto alla Bicocca, insegna pure informatica giuridica a Milano. Andrea, una tua prima impressione, siamo sentiti ieri sera al telefono, anche noi eravamo stupiti, su questa ulteriore dimostrazione di quanto i flussi emotivi, quanto lo spirito della folla, quanto anche la chiacchiera da bar poi si amplifichi in maniera esponenziale attraverso i luoghi di espressione della rete. Sì, in qualche modo è una conferma di teorie abbastanza diffuse tra gli studiosi che appunto si interrogano su questi fenomeni. Sono studiato soprattutto da Cass Sunstein, che attualmente è uno dei consiglieri di Obama, ma è un filosofo del diritto americano abbastanza famoso, che pubblicò qualche anno fa un libro che si chiama Republic.com, anche in italiano, poi anche in italiano, e lui rivelava proprio questo fatto: quando si discute in rete i comportamenti delle persone, le opinioni delle persone tendono a radicalizzarsi, a estremizzarsi, ed è esattamente il fenomeno che abbiamo visto in rete in questi momenti. Insomma, anch'io ovviamente mi sono iscritto a questo gruppo nato di Massimo Tartaglia, ormai 42.000 utenti, e seguendo però le discussioni tra virgolette che ci sono qua sopra, si vede che persone anche che entrano con buona intenzione di moderare ben presto passano a sostenere tesi effettivamente radicali o da una parte o dall'altra. Ho dato anche un altro episodio, anch'io mi iscrissi fra i primi a questo gruppo perché ci si scrive per vedere cosa succede dentro, per partecipare. Arrivavano nel mio gruppo, dove appunto sollevavo la discussione su questo fenomeno in rete, persone indignate dicendo: come osi tu mettere in dubbio quello che sta accadendo quando anche tu stesso ti sei iscritto? Quindi viene una sorta di controllo incrociato, quasi timore, quasi paura di doversi esprimere, perché esprimersi significa per forza appartenere a una sorta di manichea determinazione di essere o da una parte o dall'altra. Sì, iscriversi a un gruppo è diventato in qualche maniera, almeno su Facebook, insomma, viene interpretato da alcuni come mettersi un'etichetta. No? Io mi iscrivo a un gruppo perché sono favorevole a questo gruppo, sono favorevole ai contenuti di questo gruppo, quando in realtà nella maggior parte dei casi non è così. Insomma, adesso non so quante le persone iscritte a questo gruppo siano contrarie alle tesi sostenute qui, però sicuramente molte, insomma, non tutti si appiattiscono su tesi banalmente favorevoli all'atto che ha fatto questo signore disturbato. Questo è un problema anche della comunicazione, perché con questi nuovi strumenti quelli che non si riesce davvero a fare è articolare pensieri in qualche maniera. Quello che si riesce a fare nella maggior parte dei casi è gettare slogan e vedere quello che succede. Agli slogan si risponde ovviamente con altri slogan e ben presto scoppia una rissa molto simile tutto sommato secondo me alle risse tra virgolette che scoppiavano e scoppiano immagino ancora una volta ancora oggi nei bar quando si discute tra amici che hanno idee o tra avventori del bar che hanno idee politiche diverse, no? Ecco, secondo me vanno letti esattamente in questa maniera, sono né più né meno risse da bar o da piazza, risse, sono discussioni da bar o da piazza trasferite semplicemente ad un livello più alto e rese pubbliche, perché io ho anche l'impressione che molte delle persone che scrivono qui sopra non si rendono davvero conto che quello che stanno facendo è pubblico, cioè è leggibile da tutti almeno potenzialmente. Ma io questa mattina ho segnalato a un mio amico una foto che hanno messo di lui con delle chiare ingiurie e diffamazioni, una persona che aveva messo il suo nome, dico guarda, poi decidete, questo ha messo questa tua foto con queste frasi denigratorie su di te, mettendo anche il suo nome, vedi tu quello che vuoi fare. 800240024. Allora, il tema è chiaro. La ricaduta emotiva sulla rete, almeno in questa prima parte della trasmissione, rispetto all'episodio che oggi, di cui oggi tutte le cronache parlano. Il ferimento e l'aggressione di Silvio Berlusconi in Piazza del Duomo a Milano accaduto ieri. In rete immediatamente è esploso un fenomeno di massa, di partecipazione, di discussione, di presa di posizione che ha segnato dei numeri secondo me abbastanza importanti da non sottovalutare. Ripeto, 378.000 persone non sono poche, anche se si limitano semplicemente a fare un click. E presento il secondo ospite questa mattina, Vittorio Zambardino, buongiorno. Buongiorno. Zambardino è giornalista di Repubblica, ma in questa veste è, per cui lo chiamiamo, è autore di Eretici Digitali, un libro scritto recentemente con Massimo Russo per l'edizione Apogeo, che parla proprio di quelli che possono essere i paradossi, i limiti, ma anche le potenzialità dell'informazione in rete. Tu, Vittorio, anche tu avrai seguito, penso, da ieri sera quello che sta accadendo. Non so se hai notato che appena il TG2 delle 20:30 ha dato la notizia che esisteva un fenomeno su Facebook, è esploso il fenomeno. Questa mattina i quotidiani ne riparlano, quindi è possibile che quello che potrebbe essere di nuovo, di singolare, di stupefacente riguardo alla possibilità di esprimersi in rete sia così condizionato poi dai media tradizionali? Sì, è assolutamente così. Cioè, perché è per un semplice motivo, è la gente che scrive sul web è la stessa che ascolta la televisione, vive le sue emozioni e le va a manifestare ed esprimere nella rete. Sono fenomeni importantissimi perché, bisogna dire, non voglio essere come dire gesuitico, ma c'è anche una capacità di esprimere una politica non di pancia. Poi però sulla botta dell'evento, sul colpo dell'evento, c'è molto l'espressione della pancia. Ti do la notizia che siamo già a 380.000 per il gruppo di cui parlavi, ma che contemporaneamente sono scomparsi. Solo mentre ne parliamo, vedi, esatto, è straordinaria questa crescita. Alcuni dei gruppi favorevoli che all'irresponsabile che ha commesso il gesto di ieri sera, quelli dove appunto c'era la cosa sposami Massimo Tartaglia, quelli sono scomparsi. Quindi l'altro fenomeno su cui gli espressori, quelli che esprimono le emozioni di pancia dovrebbero riflettere è che poi si scatena subito la censura. Però questi fenomeni sono di una entità e di una violenza. Quindi secondo te c'è stato da parte di chi gestisce Facebook una volontà di togliere alcuni gruppi e lasciarne altri? Ma quelli che gestiscono Facebook di solito non agiscono mai di impulso. Su segnalazione, certo. Ora è evidente che lì c'erano delle affermazioni molto pesanti, può darsi che ci siano stati interventi anche di tipo istituzionale, non lo possiamo escludere. La cosa incredibile che bisogna segnalare è la pervasività di certi meccanismi. Io stamattina ho scritto già sul sito di Repubblica T in pratica una dissociazione, perché un signore aveva messo un manifesto in cui praticamente diceva ma vabbè, però il governo provoca eccetera eccetera, e mi aveva associato, perché sui social network io posso dire Nicoletti piuttosto che Rossetti sono amici miei, quindi sono d'accordo con questo. E beh, d'accordo un corno, cioè io ho dovuto scrivere una cosa in cui dico non è possibile usare i meccanismi del social network per associarmi ad atti politici ripugnanti. Quando uno si dissocia, scusami Vittor, sì, ancora più diventa motivo e scaturigine di commenti, vigliacco, ti sottrai, non prendi posizione. Siccome accade a tutte le persone che in buona fede e con spirito, non lo facciamo professionalmente, ma molti possono essere mossi dalla curiosità per capire quello che è un flusso emotivo, possibile che non ci sia un indicatore concreto e serio e non ci sia una possibilità di capire cosa realmente accade nelle coscienze guardando semplicemente queste esplosioni in rete? E secondo me la possibilità di capire viene dal... bisogna capire, leggerle tutte e poi cercare di vedere, no, perché è come se qualche volta, non so se vi è capitato qualche volta in una gita in campagna o in montagna, d'estate sollevare un sasso, allora, e vedere vermi piuttosto che animaletti di altro genere, cioè tu, non voglio fare paragoni offensivi per chi si esprime, cioè vedi una realtà senza mediazioni, no? Senza mediazioni. Allora, però, da dove viene questo? Volevo rispondere, finire la risposta alla domanda precedente. Perché accade questo? Perché nel fuoco dell'uso di massa c'è una torsione, cioè Facebook significa in inglese niente altro che il libro dei partecipanti a un certo corso universitario, cioè una cosa che più pacifica e più goliardica e più innocente di così non me la posso immaginare, ma nel momento in cui questo strumento scende e viene usato, perché in Italia sono 10 milioni e passa le persone che usano questa roba, allora nella passione di un paese, le passionacce di un paese, è esattamente come l'automobile che dovrebbe essere fatta per portare i bambini al mare e che poi diventa uno strumento di un comportamento folle, di corna e di aggressività. Cioè, lo strumento subisce un'immediata trasformazione, mostrificazione. Sentiamo un attimo Enrico, ci chiama Enrico, il primo ascoltatore, 800 24 00 24, mi sembra che il tema sia chiaro, stiamo serenamente analizzando un luogo dove comunque si muove un flusso di opinione, cercando di capire con persone che studiano la rete, che hanno approfondito la rete. Zambardino ha appena scritto un libro su quella che è l'informazione e il rapporto fra informazione e rete, e quanto poi sia possibile determinare se esista un indicatore certo, concreto, attendibile rispetto all'opinione pubblica. Enrico, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, ecco, sì, appunto, io avevo un modestissimo parere che questa persona abbia fatto proprio questo gesto, indipendentemente da uno schieramento politico, proprio perché questa persona poi avesse quasi la consapevolezza che avrebbe avuto poi un eco sulla rete, per mettersi al centro dell'attenzione. Beh, insomma, è chiaro che chi aggredisce fisicamente il Presidente del Consiglio in qualunque paese, in qualunque epoca, è consapevole che diventerà comunque un personaggio noto e pubblico. Lei però vede una accezione ulteriore, essendo una persona che comunque aveva a che fare con l'elettronica, sì, e probabilmente... Sì, ecco, ha avuto un passato anche come studente a Milano di ingegneria elettronica, aveva fatto, credo, anche una piccola scoperta di unire... Sì, i quadri digitali. Quindi, insomma, non è proprio con una mira ben precisa. Quindi l'ascoltatore Andrea Rossetti suggerisce che esiste oggi nella possibilità di dare eco a un proprio gesto da parte dei conoscitori dei meccanismi di rete, il cosiddetto marketing virale, che può essere applicato anche a gesti di follia, una consapevolezza che agendo in quella maniera, toccando certe leve, si avrà comunque il suscitare di questa onda lunga. Non credo che questo sia il caso, per la verità, perché appena comparso il nome sull'Ansa, io ho fatto una ricerca sul nome di questa persona in Google e non c'era praticamente... Sì, non ha nemmeno un blog, non ha nemmeno un suo profilo. Però sicuramente ci possono essere appunto interventi di marketing virale, come giustamente tu, che permettono di amplificare le mie azioni. Sono studiati d'altronde questi, no? È un marketing appunto di tipo nuovo, molto amato da coloro che fanno questi mestieri, che sembra abbia effetto soprattutto appunto quando si ha a che fare con eventi strumenti che toccano più la pancia che non la testa delle persone, come in questo caso. Peraltro, insomma, il sito di 380.000 persone a sostegno di Berlusconi sembra sia in qualche modo un fake, nel senso che sembra che il titolo sia stato cambiato in mattinata. Quindi queste 380.000 persone erano iscritte a un sito che a una pagina di Facebook che faceva altro, che improvvisamente ha cambiato titolo. Sono quelli delle aste che davano i telefonini. Probabilmente sì, che è veramente bizzarro, no? Perché questo ci fa capire anche come sia davvero difficile gestire in qualche modo anche l'immagine che noi diamo di noi stessi in rete, perché c'erano persone che erano iscritte a questo sito perché regalavano telefoniti, improvvisamente, ma legittimamente, per carità, l'amministratore di questo sito ne ha cambiato il titolo e questi sono visti attribuire una identità politica che probabilmente non hanno o non condividono fino in fondo. Aveva messo addirittura la foto delle quattro signore ministre del governo Berlusconi per attirare ancora di più l'attenzione. Io avevo citato che c'era in questo sito una strana, singolare, che non mi suonava bene, pubblicità a un'asta che davano un iPhone, mettevano all'asta un iPhone. Melog 2.0. Anche noi che stiamo guardando il nostro profilo di Facebook rispetto all'argomento che abbiamo sollevato questa mattina, la ricaduta emotiva in rete, la reazione in rete, l'opinione in rete rispetto all'aggressione a Silvio Berlusconi, un ascoltatore mi mette a confronto questi due termini, la folla e la follia. Ho l'impressione che l'una legittimi l'altra. Le streghe a rogo erano sempre in mezzo a una folla, c'è una deresponsabilizzazione nell'essere in mezzo a una folla e la folla diventa atto collettivo. Se il folle da solo rimane lo scemo del villaggio, quando è in mezzo a una folla traduce nei suoi atti una volontà collettiva. Ho al telefono, ricordo, Vittorio Zambardino, autore di Eretici Digitali, edizioni Apogeo, La rete in pericolo, giornalismo pure, come salvarsi con un tradimento e 10 tesi. Vittorio Zambardino, alla luce di quello che stiamo dicendo questa mattina, l'analisi dei gruppi pro e contro Tartaglia, pro e contro Berlusconi, addirittura abbiamo scoperto in diretta che uno dei gruppi più frequentati in realtà è un fake, cioè un falso, era un signore che pubblicizzava delle aste, delle vendite dove mettevano in palio un iPhone, che ha cambiato velocemente il titolo al suo gruppo per avere più adepti. Ecco, nel tuo libro c'è questa sorta di altalena nel valutare e nell'analizzare l'informazione e l'esperienza in rete, tra la voglia di ripristinare un controllo sociale stretto, infatti già questa mattina c'è chi dice dovremmo controllare, chiudere, reprimere su Facebook, attenzione alla rete, e d'altra parte questa celebrazione, questa mistica dell'innovazione, tutto ciò che è nuovo improvvisamente sembra che apra delle dimensioni nuove alle possibilità di esprimere un proprio parere, un proprio consenso, una propria opinione. Noi, diciamo, tentiamo in quel libro un'impresa impossibile, perché appunto è come quelli lì che sulla rete dicono no, però esprimiamoci moderatamente, prendono i sassi quelli lì di solito. Ecco, noi diciamo, non guardiamo solo ai media in crisi, alle responsabilità dei giornali che ci sono, guardiamo alle illusioni che ci sono da una parte e dall'altra, illusioni della rete, l'illusione per esempio della libertà assoluta, che è una illusione per esempio di quelli che dicono la rete non va toccata, perché la rete può riparare qualsiasi suo difetto da sola, come se fosse un corpo mistico, una presenza in sé viva. Come gli eroi della fantascienza che si... Esatto, come la ferita che si richiude, no? Qui si parla di intelligenza collettiva, qui si hanno in mente certi scritti, certi autori che... Sì, perché parliamo sempre di intelligenza collettiva, ma siamo poi sempre insieme ad analizzare l'idiozia collettiva. Esatto, e qui stiamo analizzando invece l'ombra, come avrebbe detto Jung, dell'intelligenza collettiva, cioè l'idiozia, che esiste e che nella storia europea poi si presta spesso evidentemente a delle manipolazioni anche politiche. Allora, e qui ritorniamo al tema di prima. Allora, noi diciamo questo nel libro: attenzione, perché da una parte ci sono quelli che vorrebbero chiudere questo squarcio dicendo ma vabbè, Facebook vedete è solo spazzatura, oppure, ma qui non parliamo solo di Facebook, la rete, ci sono quelli che rubano i film, cioè chiudiamo tutto, regolamentiamo, diventa reato fare certe cose, eccetera. E allora a questo punto non si può rispondere ma questa è la terra promessa, bisogna dire questa è un'occasione di sviluppo e della libertà di espressione delle persone, quindi non ci metta le mani la politica o ce le metta, diciamo, a ragion veduta. Anche perché l'ha sempre usata malissimo la rete, la politica. Ma, totalmente, ma adesso emergono degli usi diversi, certo non questi di queste ore, però una, per esempio, voglio dire, noi facciamo un paragone che è quasi blasfemo, no? Andiamo a toccare Obama, perché Obama ha 13 milioni di persone che non leggono i giornali o che magari leggono poco, li ascoltano, ma che si rapportano direttamente al suo sito, ai suoi Twitter, ai suoi, no, alla sua informazione. Allora, se al posto di Obama ci fosse stato George Walker Bush, io sono convinto che tutti avremmo gridato al pericolo della manipolazione, perché questo è il problema. Allora, quando lui ha articolato politica... il suo staff su questo mezzo, esatto, di espressione, ha messo persone a lavorare su Twitter, a rispondere su Twitter, a movimentare questo mondo. Quando la politica salta la mediazione dei media, non parla di istituzione, e modella direttamente il suo messaggio sulle emozioni delle masse, noi giustamente ci allarmiamo. Beh, allora allarmiamoci anche per questo caso che ci sembra positivo di Obama, cioè la disintermediazione, questa parola che piace a tutti, dei mezzi, no, della liberazione dell'opinione pubblica dai sacerdoti mediatori, che somiglia poi molto alla polemica sugli intellettuali, non so, che è una classe sacerdotale che sta facendo un, no, po' acqua, diciamo la verità, e che però voglio dire, ci espone a questo tema, al tema che succede un fatto pazzesco come quello di ieri sera e c'è quella che dice Massimo Tartaglia sposami. Cretina, uno vorrebbe dire, no? Però non vale niente dire cretina, bisogna capire perché partono queste dinamiche. Sentiamo qualche ascoltatore, sentiamo Giulio, buongiorno Giulio. Sì, buongiorno a lei, mi viene da sorridere perché sentivo l'interlocutore che mi ha preceduto che parlava di Obama, un Obama che ha preso il Nobel della pace e in questi giorni ha inviato 30.000 soldati in più in Afghanistan. Mi domando, mi viene così a caldo, non era questo l'oggetto del mio intervento, Mi domando se fosse stato Berlusconi in Italia a fare una roba di questo genere, che cosa ci sarebbe nelle piazze o sui giornali. Sì, però se possiamo svicolare dal se fosse stato, perché rientra in tutte cose che non è questo l'ambito in questo momento, parliamo una cosa ben precisa, se non finiamo più. Ecco, vada al punto invece rispetto a quello di cui stiamo parlando questa mattina. La possibilità di esprimersi liberamente attraverso la rete senza mediatori, perché non porta mai a dei risultati che ci stupiscano dal punto di vista della possibilità della profondità di un pensiero, dell'oscillazione di un'idea? Dobbiamo soltanto assistere all'affastellamento delle opinioni da bar. Io credo che nella rete, cioè, se vogliamo prendere i valori della democrazia, credo che il primo valore indicativo reale sia il voto popolare tramite elezioni. Sulla rete io credo che si muova un certo filone, un filone che secondo me, ma è una mia opinione, si muove con un orientamento più legato alla contestazione che al consenso. È strumento antagonista, ma questo non è un valore negativo, in cui uno si esprime contro ciò che viene fortemente sostenuto dal sistema del potere. Potrebbe anche essere qualcosa di positivo che sia uno strumento, anche la radio è uno strumento antagonista. La radio è stato nella sua storia il più formidabile strumento antagonista. Non c'è stata guerra, rivoluzione, sollevazione, clandestina resistenza non abbia avuto una radio dietro. Certo, entro certi ambiti sicuramente, secondo me però ci si sta muovendo su delle tracce non proprio democratiche, nel senso che i campioni della democrazia, quelli che vanno a contestare addirittura le vittime della strage, delle stragi che ci sono state recentemente, le commemorazioni e quant'altro, io credo che siano solo momenti e opportunità per contestare il sistema, non entrare nel merito, perché in quel caso certamente le vittime andavano sostenute e applaudite, non certo contestate. Questo dimostra che ogni occasione è buona per andare contro quello che... Quindi secondo lei conferma quello che stanno dicendo i nostri esperti, che la rete è strumento di radicale divisione, non c'è incontro, che la prima chiave della democrazia non è un luogo di discussione ma un luogo di conferma di posizioni. Andrea, buongiorno. Buongiorno, io solo un breve intervento. Da non sostenitore di Berlusconi, mi sembra che questa raccolta di adesioni su Facebook che inneggiano a Tartaglia siano, come dire, un segno assai pericoloso dei tempi di radicalizzazione e di scontro. mi ricorda, con tutte le debite differenze, il clima che si creò con l'appello dell'Espresso sul caso Sofri e di demonizzazione di una persona. Ecco, in questo senso. Ecco, lei rifà riferimento ad alcune campagne stampa che tristemente poi furono anticipatorie del delitto calabrese. Ma proprio per questo la ringrazio dello spunto che mi dà. Vorrei su questo convocare un altro ospite. Edoardo Novelli, buongiorno. Buongiorno a voi. Edoardo Novelli è studioso di comunicazione politica, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Roma 3. Novelli, lei avrà ascoltato in parte quello che diciamo, avrà visto i giornali. Esistono delle possibilità di paragone, di collazione tra questo caso ed altri casi, sia nella storia politica recente, di gesti di violazione della sacralità, detto fra virgolette, del personaggio pubblico? Insomma, l'attentatore è sempre acclamato dalle folle come un eroe o dilaniato dalle folle come un truce assassino. Cosa accade quando questo avviene nel mondo del digitale, nel mondo della rete? Beh, cambia molto, cambia già quando questo avviene in un mondo mediatizzato dove i media e la comunicazione funzionano come cassa di risonanza. Per molto tempo l'eliminazione dell'avversario o l'attentato all'avversario nel tentativo di eliminarlo col pugnale o col veleno ha sempre avuto un obiettivo molto diretto, cioè l'eliminazione fisica dell'avversario politico. Giulio Cesare, eccetera, insomma tanti altri, quello era l'obiettivo centrale, eliminare il mio avversario. Man mano che poi questa cosa si entra in un mondo dove c'è una comunicazione, dove vi è quelle cose che avvengono vengono riprese, riportate, amplificate, cambia anche il significato, anche il famoso attentato, quello di Sarajevo, che dà l'inizio alla Prima Guerra Mondiale, ha l'obiettivo di eliminare Francesco Ferdinando, e lo stesso anche quello famoso in Italia. Tartaglia non è Gaetano Bresci comunque. No, infatti viene subito in mente Gaetano Bresci, ma Gaetano Bresci è un anarchico che va a fare l'attentato per vendicare i morti di Bava Beccaris. Quindi quelli hanno soprattutto delle... Ma la prima cosa che hanno detto che era che aveva dei problemi psichiatrici, poi su questo esatto. Ne parlerò nell'ultima parte. Quindi non ha nemmeno questo alone di eroico vindice, mano tirannicida. Ma no, non ha nemmeno l'alone del gesto esemplare. Sì. Cioè non agisce deliberatamente in nome e in voce di qualcun altro. E questo rende ancora più paradossale e ridicolo però il consenso. Ammesso e non concesso che sia una persona con problemi di controllo di sé, farlo un eroe mi sembra ancora più ridicolo. È assolutamente demenziale una cosa del genere, anche perché lui non si propone in quanto tale. Lui non, anche gli altri attentati, le altre azioni, pensiamo alle azioni terroristiche degli anni 70, no? Si è detto che il sequestro di Moro è stato principalmente un sequestro della comunicazione, un sequestro della democrazia, perché era il porre all'interno della scena pubblica il protagonismo delle brigate rosse, quindi agivano in nome di qualcuno, di qualcun altro. Ecco, questo Novelli, però l'ascoltatore ha detto una cosa ben precisa: quello che accade in rete assomiglia alla campagna stampa, al consenso di stampa che precedette il delitto calabrese, ma non trova invece che al contrario la rete funga da sfogatoio più che da sollecitatore poi di gesti nel mondo concreto? Ma la rete è un luogo di grande ambiguità, d'altronde siamo tutti lì che ci ragioniamo e cerchiamo di capire che cosa vi succede dentro. Da un lato è vero che nella rete non so quanto si svolga il dialogo fra culture diverse, fra diversi. La rete tende molto a compattare al proprio interno, a dare voce alle diversità, ma quanto poi le diversità si parlino, quanto la rete crea dei ponti è ancora da vedere. Serve a compattare i sottogruppi, le sottoculture, le identità diverse che appunto sono delocalizzate ed è possibile che si identifichino e si trovino in rete, cosa che non è possibile fare nella realtà materiale. Senta, professor Novelli, devo dare la linea all'informazione per il traffico, ma però di quello che le stai dicendo e stanno dicendo i nostri ospiti lo dimostra il fatto che occorre fare un passo indietro e portare alla radio una discussione che altrimenti sarebbe impossibile o molto difficoltoso fare all'interno della rete, perché come ha detto Zambardino all'inizio, all'interno della rete si chiede immediatamente un'etichetta, lo schierarsi, da che parte stai, se no non puoi parlare. 800 24 0024. Stiamo tirando le fila per quanto possibile nell'analizzare un fenomeno che è la ricaduta in rete di quella che è la ricaduta sui mezzi di informazione tradizionali di un episodio di cronaca, un episodio singolare, atipico, per alcuni sensi anche abbastanza unico nella storia del nostro paese, che è l'aggressione al Presidente del Consiglio avvenuta ieri a Milano. Abbiamo Paola al telefono. Paola, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, io volevo fare due osservazioni. Allora, la prima è questa. Quando lei ha presentato questi gruppi su Facebook, ha detto 40.000 persone, 370.000 persone per l'altro gruppo, come dire, gruppi rilevanti. Io mi permetto di dire che secondo me questi gruppi di Facebook sono anche troppo amplificati, nel senso che c'è come un gioco di specchi tra i vari mezzi di comunicazione e alla fine sembra che veramente rappresentino la società. Da parte mia io ritengo che, penso che insomma stare tanto in questi gruppi cosiddetti social network è quasi un segno invece di un comportamento, non dico antisociale, ma poco rivolto al sociale reale. Perché io le volte che ho partecipato a gruppi di discussione, eccetera, ho visto che mi ci vuole un mucchio di tempo, resto attaccato al computer ore e trascuro quelli che sono i rapporti sociali reali, mio marito, i figli, gli amici, le persone che potrei incontrare nella realtà. È il difficilissimo discrimine, è il filo sospeso fra due montagne altissime su cui ci si dibatte spesso quando si ha la curiosità professionale, la necessità di saggiare lo spirito del proprio tempo e ci si produce e si fa esperienza diretta di questi luoghi. Lei ha perfettamente ragione, molte volte si perde molto tempo, lei ha perfettamente ragione, questi gruppi crescono e levitano in ragione della loro presenza nei media tradizionali. Ne parlai a suo tempo a proposito dei blog e fui tacciato di eresia quando dissi che in realtà i leader della cosiddetta blogosfera italiana erano persone che comunque avevano una visibilità in grossi mezzi di informazione tradizionali e per questo avevano credibilità in rete. Cioè sembra che ancora la rete non abbia coltivato, non abbia creato una sua leadership che nasca soltanto dal frequentare la rete. È anche vero che in realtà fuggire fuori, fingere che non esiste questo luogo, questo crogiolo, significa non vivere appieno il proprio tempo. Ma su questo vediamo se Andrea Rossetti ha qualcosa da aggiungere, è professore di filosofia del diritto alla Bicocca. Sì, questo discorso l'abbiamo già fatto molte volte, no? In realtà non c'è più non c'è una realtà vera a cui si contrappone una realtà che noi viviamo attraverso internet. Internet è uno strumento, Facebook, i blog, le mail, sono degli strumenti con i quali noi comunichiamo con le persone che ci sono vicine, ma anche con persone che non conosciamo. Ci danno nuove opportunità questi strumenti che prima non avevamo, ma non è una contrapposizione tra reale e reale. Ecco, io credo che sia ora di smettere di contrapporre tutto ciò che avviene in rete come irreale e ciò che avviene nel mondo invece come reale. È la stessa distinzione si fa fra natura e innatura e non naturale. Questo esatto. È naturale, questo non fa parte della natura. Sentiamo però Luigi che solleva un problema che volevo assolutamente toccare entro la fine di questa trasmissione. Luigi, buongiorno. Buongiorno a lei, signor Nicoletti. Senta, io mi sono chiesto soltanto una cosa, tutte le persone che sono intervenute hanno ribadito in prima cosa il fatto che questo signore sia una persona che abbia, diciamo, dei fastidi, dei disturbi mentali, che abbia delle cose, insomma, a livello cerebrale. Ma io mi domando, tutte le altre persone invece che hanno aderito a Facebook, a tutte queste cose qua, io ritengo siano delle persone sane e quelle che mi mettono effettivamente paura, non riesco a capire come faccia una persona a poter fare un gesto del genere e poi essere, diciamo, in qualche modo associarmi a una persona del genere, mi vengono i brividi a pensarci. Allora, a questa domanda le faccio rispondere all'ultimo dei miei ospiti, Giuseppe Neri, buongiorno. Gianluca. Giuseppe Neri, neuropsichiatra, vicepresidente della Società Italiana Neurologi Ospedalieri. Giuseppe, ieri ho osservato anch'io con attenzione un fenomeno anche per me nuovo. Vedevo a Sky TG24 il fermo immagine sull'occhio del lanciatore del modellino del Duomo di Milano e la giornalista osservava: vedete lo sguardo? Si capisce che non è una persona normale. La sua psicologa già è corsa dai carabinieri a dare testimonianza del fatto che lui sia un malato psichiatrico e abbia dei problemi. Il tuo giudizio? prima di tutto trovo che sia inopportuno fare riferimenti specifici a una persona che sono convinto sia una persona malata e malata seriamente, quindi fare un discorso generale di persone in questo che caso li salva un po' la situazione aggressivi. No, il discorso è che io ho anche letto una cosa che per me è preziosa, perché noi da piccoli indizi abbiamo costruito le nostre idee, sembrerebbe, da quello che scrive un importante quotidiano milanese, che questo signore appena preso dalla sicurezza ha detto: ma io non sono io non ho a che fare con quello che è successo. Allora, questo farebbe pensare, come in tanti altri casi di persone con gravi problemi che hanno fatto degli atti di aggressione a personaggi importanti, da chi ha fatto fuori John Lennon ad altre persone, e che queste sono persone che, al di là delle cosmesi lessicali di questo nostro bel paese, per cui leggo psicolabile, sofferente, io temo che persone che fanno queste cose sono delle persone che hanno una malattia grave, importante, descritta da 100 anni, che si chiama psicosi, che significa che hanno disturbi del pensiero, disturbi della forma del pensiero, disturbi del contenuto del pensiero, e vivono in un mondo in cui i parametri di valutazione della realtà e dei rapporti tra le persone, che sono i miei, i tuoi, quelli di chi ci ascolta, non sono i loro. E quindi ha ragione chi ci ha preceduto. Io sono molto perplesso sul fatto che lo strumento mediatico, Facebook, consenta di aderire e di inneggiare al gesto, termine inadeguato, inappropriato, ma efficace, di un folle. È quello che mi fa molto pensare. Grazie, e Giuseppe Neri, mi sembra chiaro, mi dispiace che lo puoi esprimere in così poco tempo, ma il pensiero è fulminante nella sua chiarezza. Ringrazio te, ringrazio Edoardo Novelli, Vittorio Zambardino, Andrea Rossetti e tutti gli ascoltatori. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.